Io sto lavorando tutti i giorni, sto lavorando sul territorio. Cosa significa? Che mi occupo prevalentemente del comune di Bologna, praticamente di Bologna, e quindi la mia giornata parte con, si arriva in azienda, si prende l'autocertificazione, la si compila, si carica il mezzo con quello che serve. Adesso ci stiamo tanto occupando di recupero carcasse per evitare di aggiungere epidemia, e anche nella situazione roditori nel comune, perché come dice il vecchio adagio, quando il gatto non c'è i topi ballano, ecco, è un motto assolutamente calzante. Sì, questo è un quindi effetto collaterale, diciamo così, quando appunto le strade sono più deserte e la natura si riprende i suoi spazi, non aspetta mica noi, eh. C'è un'esplosione di nutrie, c'è un discreto aumento dei topi, che però abbiamo sistemi di lotte, quindi si riescono in qualche modo a contenere. Abbiamo le città deserte, sembra Ferragosto, anche più spettrali di Ferragosto. Io non ho certamente più problemi di traffico e di parcheggio, però siccome non tutti hanno una casa e io lavoro anche in aree verdi, parchi e posti del genere, ci sono delle situazioni un po' limite, cioè tu vedi gente che è abituata a vivere soddisfacendo i bisogni proibiti di noi italiani, e stiamo parlando per esempio dei venditori di stupefacenti, stiamo per esempio parlando delle professioniste della MUFU, e questa gente si trova completamente scoperta, non ha nessun tipo di assistenza sociale, non ha nessun tipo di, diciamo, margine. Temo che tra un pochettino brucheranno l'erba dei prati, perché non hanno altra condizione. Io che vado in giro con un mezzo dove c'è scritto chiaramente che lavoro faccio, vengo fermato circa due volte al giorno, dove vogliono vedere l'autocertificazione. È molto simile a Pyongyang, se fosse stata a Pyongyang. È una situazione surreale. Io sono fortunatissimo perché sto vedendo la primavera, che comunque quest'anno riparte come tutti gli anni, non è che aspettano. Oggi tra pochettino parto, vado a Roma a prendere un macchinario che servirà poi per andare domenica a fare una sanificazione in un'azienda. Cioè stiamo lavorando moltissimo in questo settore. Una domanda che ti prego di non farmi è: serve? Perché non lo so. Sicuramente abbiamo visto ad esempio nei giorni scorsi questo discorso sul fatto che il virus sta sull'asfalto. La domanda che ti faccio non è quello se serve, ma è se le persone vi stanno cercando di più, anche magari confondendo quello che è il vostro lavoro con... In maniera esponenziale. Io domenica lavoro, il mio collega sabato lavorerà. Stiamo lavorando da Carmagnola a Pesaro, a Roma, a Taranto, non ci sono limiti. Io non so come sarà domenica andare a Pesaro, credo che sarò solo in autostrada. Comunque la situazione è che nel campo della disinfestazione non c'è stop, e i famosi DPI, dispositivi di protezione individuale, sono tali, perché sono seri, sono maschere facciali complete con filtri che davvero bloccano qualsiasi cosa, dai virus alle polveri sottili, perché noi lavoriamo anche molto con il guano dei piccioni. Solo che è abbastanza improponibile indossare tutti questi DPI, perché non faresti altro che scatenare il panico nella popolazione. Quindi li usi solamente quando sei in ambiente chiuso. Quando sei in ambiente all'aperto, cerchi di stare lontano da tutti, lontani dalle persone che magari ti vengono vicino per chiederti qualcosa, e lavori in questa maniera. Non compri niente, inizi la mattina alle 8, torni a casa pomeriggio alle 5, che non hai mangiato, ti sei portato la tua bottiglietta d'acqua, e mantieni questa situazione sperando che anni di dissolutezze abbiano creato anticorpi necessari a poter supportare questo momento. Situazioni non facilissime di lavoro, e in più ti sei sentito anche dire di stare in casa ad alcune persone? Beh, immaginatevi queste persone. Io controllo quelle scatolette nere che si vedono agli angoli delle strade, che sono degli erogatori d'esca. Quindi magari vado dietro un bidone dell'immondizia, mi chino, lo apro, leggo il QR code che c'è dietro sul telefono, e più di una volta ho sentito dire: cosa sta facendo lei? Deve andare a casa. Sì, ti dice il tuo lavoro, ti alzi, e sinceramente non trovo neanche convenienza nel rispondere a una frase del genere. Mi faccio vedere pensando che si vede bene che sono vestito da operaio, con il nome dell'azienda ben chiara, salgo sul mio furgone rosa con scritto delle acquisizioni, e oso sperare che la persona si sia resa conto di essersi rivolta nella maniera sbagliata alla persona sbagliata. Certo. È assolutamente inutile essere aggressivi, non ha alcun senso. Energie bisogna usarle per altre cose. Un'ultima cosa che ti chiedo, appunto, tu hai detto che stai girando diverse città, diversi contesti, la situazione è simile, cioè deserto ovunque, o ci sono luoghi in cui c'è più gente per strada? Se tu sei nelle città. Comunque c'è un momento di punta al mattino, sì, punta per modo di dire, la metà della metà, un momento di punta a pranzo e dopo le 14:30-15 non c'è più nessuno, non c'è più nessuno. In autostrada tu vedi solamente camion e furgoncini come il mio, cioè tecnici che lavorano sul territorio, manutentori o roba del genere. Direi, dal mio punto di vista, la quarantena è abbastanza osservata. L'unica cosa che mi lascia molto perplesso è questo girovagare di anime perse che in qualche modo non vengono neanche fermate dalla polizia, perché li rivedono, sono sempre quelli, non saprebbero dove metterli, non saprebbero che cosa farsene della denuncia che gli danno. Loro si trovano una volta di più nel punto peggiore della società. Questa cosa mi dà da pensare molto.